stasera parliamo di funk e vi ricordiamo il nostro profilo Twitter, il profilo Twitter della trasmissione Uru, giusto appunto, che è uru-rw di Radio Wombat. Così potete trovare le notizie sull'Africa che vogliamo farvi conoscere. E subito un appuntamento riguardante Radio Wombat, e cioè che domani dalle ore 14 Radio Wombat trasmetterà in diretta il corteo Notav che si svolgerà in Val di Susa. È un corteo che parte da Bussoleno fino a San Didero ed è un corteo importante nell'ambito delle iniziative della lotta contro il treno ad alta velocità in Italia e in particolare in Val di Susa. Quindi Radio Wombat dalle 14 fino alla fine della trasmissione, con interviste in diretta, lettura di comunicati, insomma tutto quello che può servire a capire quello che sta succedendo domani in Val di Susa e fare in modo che sotto certi aspetti si possa sentire direttamente dalla voce dei protagonisti quello appunto che sta succedendo. Se volete sentirlo non direttamente da casa vostra ma da un'altra parte, potete andare dalla 15.30 in via Le Corsica fino alle 22 in questo caso, il luogo non è direttamente l'occupazione di Corsia 81 ma il parcheggio in fondo a via Le Corsica, dove gli occupanti appunto di via Le Corsica hanno messo su un'area cani. Ci sarà Rap Your Sunset, torneo di basket 3 contro 3, insomma un modo per stare in compagnia all'insegna dell'autogestione e nello stesso momento eventualmente sentire la diretta di Radio Wombat. Ripetiamolo, dalle 14 fino diciamo alla fine dell'iniziativa delle manifestazioni. E come detto precedentemente, una trasmissione, la 20ª trasmissione, incentrata sull'afrobeat e l'afropunk. Ed è la terza volta, anche perché la produzione musicale e diciamo la scena afrobeat e afrofunk non riguarda soltanto la Nigeria ed eventualmente il Ghana, e non soltanto i soggetti, i cantanti, gli esecutori più conosciuti, ma spazia addirittura fin dal Mali fino al Kenya, diciamo dalla costa ovest fino alla costa est dell'Africa. E quindi insomma siamo andati alla ricerca di quelli che sono gli autori, i soggetti, i musicisti diciamo meno conosciuti da questo punto di vista, e abbiamo attinto in particolare da Africa 100. Africa 100 è una raccolta di brani afrobeat compilati da Joe Tangari, un autore, uno scrittore, un giornalista che scrive su Pitchfork Media. E l'origine della collezione, che Tangari ha poi messo insieme su 7 CD per ascoltare in macchina, lo stesso Tangari la spiega in un articolo su Pitchfork Media, che si intitola appunto The Indestructible Beat, in cui oltre a raccontare la genesi diciamo di questa raccolta fa anche un excursus rispetto a quello che è appunto l'afrobeat e l'afrofunk africano. Va tenuto presente, per questo appunto abbiamo citato questa raccolta, che non è mai stata rilasciata in commercio. Tangari si è diciamo appropriato di pezzi di canzoni pubblicate, in particolar modo un 45 giri e molto spesso anche su cassetta, cioè roba diciamo sotto certi aspetti tra virgolette introvabile, e soprattutto introvabile per noi, diciamo per quelli che non abitano in Africa e che quindi non hanno direttamente accesso a questi supporti musicali, in particolare le cassette, i demo tape, diciamo, che sono prodotti esclusivamente per il mercato locale. E quindi appunto questa raccolta circola come download illegale, e a sua volta i pezzi che ci sono in questa raccolta sono stati ripresi da altri CD, da altri, in particolare 45 giri, roba abbastanza introvabile a questo punto di vista. E partiamo con un afrofunk, diciamo, un afrofunk di un cantante maliano che si chiama Moussa Doumbia, un tipico nome maliano. E appunto questo è un 45 giri, è uscito solo su vinile, e un'etichetta, diciamo, proprio un'etichetta grassroots, un'etichetta di base, diciamo, si intitola World Psychedelic, e ve lo facciamo subito ascoltare. Questo è Moussa Doumbia, il pezzo si intitola Keleia. Thank you. Allora, e vi diciamo dei nostri social, i social della radio, il nostro sito wombat.noblogs.org, da cui potete accedere allo streaming oppure consultare il palinsesto, le trasmissioni con la spiegazione delle trasmissioni, oppure nel menu il primo a sinistra podcast potete trovare tutti i podcast di tutte le trasmissioni e scaricarveli o sentirli direttamente da lì. C'è poi l'account Twitter della radio, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com radio-wombat-firenze, la mail per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. Vi ricordiamo anche il nostro profilo Twitter proprio della trasmissione, uru-basso-rw di Radio Wombat. Il prossimo pezzo è sempre un pezzo nella loggia, all'interno, diciamo, le sonorità afrobeat, afrofunk. In questo caso si tratta di Matata, un keniano, appunto. Matata in Swahili significa problema, molto spesso viene utilizzato, o alcuni di noi conoscono la frase tutta intera, o comunque le due parole messe insieme, cioè Hakuna Matata significa nessun problema, mentre invece, appunto, l'autore, il cantante di questo pezzo si intitola Matata, appunto, e vuol dire problema. Ed è anche questo qui un pezzo inciso soltanto su 45 giri, addirittura un singolo, cioè da una parte la canzone che è Wanna Do My Thing, tra un pochissimo vi facciamo sentire, e dall'altra parte niente. Anche questa è una sorta di afrobeat, afropunk, con sonorità, si può dire anche psichedeliche, con una base diciamo musicale veramente veramente veramente potente da questo punto di vista. Ricordiamo anche che fiammeggiante, molti la definiscono. Ricordiamo che di Matata conosciamo, diciamo, ha inciso soltanto un altro 45 giri, si intitola Talking, almeno come cantante, come esecutore solista. Ve la facciamo ascoltare, Wanna Do My Thing, questo è Matata. Ready, fellas? Yeah! 1, 2, 3, 4! Hey, everybody, do you what I say? 'Cause you might believe now. Hey. Precedente, mi sembra all'inizio di marzo, avevamo parlato di una comunità nigeriana che aveva fatto causa alla Shell per l'inquinamento del loro territorio. E vi avevamo detto che l'avevano chiamata in processo a Londra e che ci sarebbe stata la seconda udienza. Quindi volevamo darvi come è finita, e naturalmente la comunità ha perso i soldi della Shell, hanno vinto anche questa volta passando sopra ai bisogni e alla vita delle persone, quindi niente, volevamo dirvi questa cosa. Il fatto è che comunque sia anche in Italia stanno uscendo sempre più spesso articoli e inchieste sul ruolo che sta svolgendo la Shell, ma soprattutto per quanto ci riguarda la Eni in Nigeria. Un ruolo molto pesante che va dall'inquinamento a interi tratti costieri, per non dire anche non solo costieri nel senso della terraferma, ma anche costieri del senso marino. Si parla di tangenti, si parla di repressione rispetto a quelle che sono le istanze della popolazione, si parla anche di salari e condizioni in cui vivono i lavoratori nigeriani che lavorano per conto della Shell e anche per conto dell'Eni, che non sono propriamente come quelle si direbbe propriamente come dire, consone a quelle che sono le regole, diciamo, dell'ingaggio, le regole lavorative non soltanto in Italia ma anche in Nigeria. Quindi un super sfruttamento da parte dell'Eni sui lavoratori, sulla popolazione nigeriana in senso generale e sull'ambiente. E da questo punto di vista appunto si addensano inchieste, articoli e ne sono usciti su Espresso, su Repubblica, insomma su tanti giornali perfino e anche su Report. Ma parlando del Delta del Niger, parlando dell'inquinamento della Nigeria, è essenziale parlare per comprendere anche, diciamo, l'ambito in cui si stanno svolgendo queste rivendicazioni, è essenziale parlare anche del MENDE. MENDE è un acronimo inglese che sta a significare Movement for the Emancipation of the Niger Delta, cioè Movimento per l'Emancipazione Delta del Niger, ed è un movimento militante composto in particolare, anzi composto da nativi della zona del Delta del Niger in Nigeria. E il MENDE ha dichiarato la lotta armata, diciamo, una lotta armata contro il degrado e lo sfruttamento dell'ambiente naturale da parte delle corporazioni multinazionali straniere. Qui riapriamo la parentesi e ribadiamo per inciso che le multinazionali straniere e le corporation sono in particolare la Shell olandese e l'Eni italiana, coinvolte appunto nell'estrazione del petrolio dal sottosuolo della regione, ma non soltanto dal sottosuolo, anche dal sottosuolo, diciamo, marino. E nel 2006 è iniziata questa, diciamo, questa battaglia, in questo caso questa lotta armata del MENDE contro il supersfruttamento di questa zona della Nigeria, ed è iniziato il rapimento di 3 tecnici italiani e di un libanese, successivamente rilasciati liberi e liberati e incolumi, anche perché il MENDE in questo caso il rapimento era stato semplicemente soltanto per pubblicizzare, diciamo, nel mondo quelle sono le loro rivendicazioni, quelle sono le ragioni. E il fine ultimo dichiarato dal gruppo è quello che il petrolio nigeriano, e quindi tutta la ricchezza derivante dal petrolio nigeriano, ritorni al popolo nigeriano. Quindi una rivendicazione che riguarda non soltanto il no allo sfruttamento del sottosuolo da parte del sottosuolo, quindi del petrolio da parte delle multinazionali straniere, ma anche il no che i proventi del petrolio rimanghino appannaggio di pochi, come molto spesso succede in Africa, ma anche in Nigeria, ma anche in tutto il mondo, diciamo, da questo punto di vista, ma che ci sia proprio una carta costitutiva, diciamo, che dichiari proprio a cosa venga redistribuito, su cosa venga reimpiegato il denaro guadagnato, diciamo, dallo sfruttamento del petrolio. E MENDE è strettamente correlato con la forza volontaria popolare del Delta del Niger, in questo caso è un altro gruppo di ribelli con scopi simili, e in cui MENDE si è, diciamo, sotto certi aspetti alleato, tra virgolette, e la cui differenza non sta tanto nelle rivendicazioni e nel fine ultimo, diciamo, di quella è la loro iniziativa, il loro percorso di lotta, ma soprattutto perché sono due situazioni che sono due organizzazioni che sono presenti in due posti diversi comunque del Delta del Niger, e conseguentemente animate in particolare da due tribù, diciamo così, da due gruppi etnici diversi. In questo caso invece combattersi tra di loro, hanno unito le loro forze per combattere, diciamo, un nemico comune, in questo caso le multinazionali. Molte di queste, quelle avevamo detto precedentemente, per esempio, cioè l'unione delle organizzazioni invece che avevano fatto causa all'ENI, alla Shell, scusate, era appunto della società civile, sostanzialmente un'assemblea, una messa insieme di tanti gruppi della società civile nigeriana che hanno promosso una class action e che, come purtroppo abbiamo detto precedentemente, è andata male, nel senso che gli è stato dato torto. Però questo sta a significare che comunque, diciamo, le cose vanno di pari passo. Da un lato c'è questo percorso, diciamo, fatto più di dimostrazioni, di rivendicazioni da un punto di vista giuridico oppure legale, dall'altro lato c'è un'iniziativa più pressante, più forte, che ha portato diverse centinaia di persone a imbracciare da questo punto di vista le armi, a combattere le multinazionali. E tra l'altro, in questo contesto delle organizzazioni non violente, Ken Saro-Wiwa è stato l'attivista più famoso, condannato poi a morte dal governo nigeriano, un'esecuzione avvenuta nel 1995 sotto il regime, in questo caso di Sani Abacha. Molti credono che l'uomo sia stato incastrato in false accuse, anzi è sicuro, l'uomo è stato incastrato in false accuse con l'unico scopo di terminare la sua attività contraria agli interessi del governo e delle multinazionali. Pensavo, africano famosissimo, e vi consiglio di leggervi qualche sua poesia perché sono veramente belle. Adesso passiamo ad un artista del Ghana che ha cominciato a unire il funk al rap e questa musica particolare è stata chiamata Simigua. Questa unione di questi due generi musicali diversi. È stato sconosciuto fuori dall'Africa fino a che ha cominciato a produrre e ad essere prodotto i suoi album, e dopo è andato anche in America, ma è ritornato in Ghana, e di lui vi facciamo ascoltare la canzone che prende proprio il nome dal genere musicale che lui ha inventato, quindi il titolo è Simigwado. Lui è Gwedu Blai Ambolei. Gwedu, hrr, kwaji, ba, ha, about the books and the truth. Was I there, kwaji, do, hrr, mama, na, stomach, kwaji, hrr, stomach, kwa, a one, a two, a three, a four. Get it, get it. Get it! my man, come on, back, wait, where's all the boots then? About the quiet you do, what you do? About the heavy death. My man, come on, come on, come on, my man, boof, where's all the heavy death boof? Where's all the quiet boof then? Vi ricordiamo i nostri social, il sito da cui potete leggere, da cui potete ascoltare lo streaming e scaricare i podcast, wombat.noblogs.org, poi Twitter, twitter.com/radiowombatfi. Facebook è facebook.com/radio-wombat-firenze. La mail per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. E sempre a proposito di Nigeria, sempre a proposito dei disastri effettuati, combinati dalle multinazionali, riprendiamo anche un po' lo spunto da un articolo di Carmilla, Carmilla Online, in cui appunto si parla di queste due comunità Ndokwa del delta del Niger, che tra l'altro è proprio uno Stato, la Nigeria è uno Stato federale come per esempio la Svizzera, e quindi a sua volta è suddivisa in vari Stati, che si chiamano Stati, appunto l'equivalente delle nostre regioni, però con una grande autonomia sia da un punto amministrativo sia da un punto giudiziario sia da un punto di vista legislativo, e appunto questa comunità Ndokwa costituita dai Kwale e dagli Occupy come popolo è al centro della connessione ENI OML60. Ricordiamo che quando abbiamo parlato della causa intentata delle altre comunità era la concessione 200, sempre OML 250, sono grossi appezzamenti marini che vengono chiamati con questo acronimo e a sua volta numerati. E su questa concessione, su questa OML 60, gravita non soltanto anzi in questo caso non gravita petrolio, ma c'è la grossa estrazione di gas, cioè appunto una centrale a gas per la produzione di energia elettrica. Per questi impianti l'AGIP, in questo caso, quindi diciamo una branca dell'ENI, si era impegnata con un memorandum nel 2000 ad attuare azioni compensatorie verso le comunità ospitanti. 11 anni dopo lo stato di attuazione dell'accordo era il seguente: si sono impegnati ad assumere personale della comunità, però hanno messo sotto contratto solo due persone, si sono impegnati a pagare un affitto per la terra occupata, ma dal 1987 ad oggi non abbiamo visto neppure un soldo. Questa è la testimonianza appunto di un attivista della nazione Ndokwa, e l'affidabilità dell'AGIP è diventata proverbiale in tutta la nazione Ndokwa, così come la sua promessa di illuminare con energia elettrica prodotta ad Occupy le comunità residenti di raggio 50 km. Al completamento dell'impianto da 480 megawatt prodotti, 450 ha preso la strada delle regioni dell'est e soltanto 30 vennero utilizzati dall'ENI stessa, mentre le comunità attorno alla centrale continuano a rimanere a buio. E quindi oltre alla luce non si può dire che l'AGIP faccia mancare l'acqua. Per la costruzione della centrale di Occupal vennero prelevate dal letto del Niger grandi quantità di sabbia, e a questi scavi gli abitanti imputano il cedimento delle sponde. Ricordiamo che mi sembra una decina di anni fa ci fu appunto un cedimento pauroso del fiume Niger proprio in quella zona, e che appunto provocò un'inondazione, frane, e la piazza del mercato e le case intorno sono state inghiottite dal fiume, e tra l'altro anche il centro medico, quello pubblico gratuito, che comunque sia non era stato finanziato come era negli accordi da parte dell'ACIP, ma era stato costruito tramite iniziative e collette pubbliche da parte degli abitanti. E questa appunto è la situazione pochi anni fa, ma secondo gli articoli e secondo le inchieste che si sono succedute negli ultimi tempi, la situazione comunque permane. C'è una testimonianza di Oron Peter, un'anziana della comunità Joab, sempre dell'Ichengenberi, cioè sempre della stessa zona. Non è la prima volta che succede, quando parlo appunto rispetto ai disastri prodotti e dall'oleodotto che trasporta, anzi dai gasdotto in questo caso, che trasporta l'elemento estratto fino a dove è raffinato e dai disastri provocati da quelle che sono, diciamo, tutte i suoi movimenti di terra per costruire le infrastrutture per l'oleodotto e per gli apparecchi per l'estrazione del prodotto. Non è la prima volta, appunto, l'AGIP ha costruito un oleodotto e passa sotto il fiume nel 1993 e in seguito vi innesta una seconda linea, seppure almeno inizialmente non approvata, diciamo, da un punto di vista ingegneristico. C'è già stata una perdita in passato nella congiunzione fra le due linee, è sempre un militante di una comunità di questa zona che parla. Nella congiunzione fra le due linee, causata da un errore di una squadra di lavoro, la nostra comunità ha chiesto più volte all'ACIP un risarcimento danni, ma la compagnia non ha voluto sentire ragioni. Poi c'è stata un'altra perdita e l'ACIP non ha potuto negare, ci ha dato i materiali di soccorso, ma fino ad oggi si è rifiutata di pagare danni alla comunità e ai singoli. Piuttosto ci ha portato in tribunale, cioè li ha portati in tribunale per le solite accuse gratuite e via dicendo. Adesso ascoltiamo un pezzo di un artista che si chiama Lagbaya. E il nome è preso da una maschera che lui indossa durante i concerti e le esibizioni ed è una maschera particolare. Lagbaya è una parola yoruba che significa nessuno in particolare, e cioè rappresenta l'anonimato del cosiddetto uomo comune. Il senza viso, come si dice, la voce dei senza voce nella società, in particolare in Africa, è anche conosciuto come Homo Baba Muko Muko. Anche se il concetto è stato sviluppato molto tempo prima, il suo primo album, intitolato appunto Lagbaya, ha avuto un riconoscimento nazionale nel 93 e alcune composizioni vengono introdotte con un semplice tempo per ballare e appunto introducono, trasformando e informando il pubblico in ballerini, mentre altre canzoni affrontano questioni sociali complesse attraverso e impegnate, diciamo, che usando parabole, ironia in multilingua, cioè parla in inglese, in yoruba, eccetera. Nel marzo del 97 ha fondato il suo club in Motherland, nel cuore di Ikea, a Lagos. Il disegno di Motherland è influenzato dalla tradizionale città africana o piazza del mercato, dove le persone si riuniscono per cerimonie, eventi come la danza, la musica, ma anche la storia, le parabole, le discussioni, come dappertutto. Quindi di Lagbaya vi facciamo sentire Side by Side. Thank you. Yes or no, but this can be dressing for you. It be like he say, they won't cause me kata. Ready, get some flower, this is the dress. You be like it say, ah, they won't cause kata. Before, get the dress to cover my body. But now, get the dress to expose my body. Obishi. Combination, colors versus colors. There's a riot. Rioting, green for top, pop for under. Oh, Barry, you go dying here. My yellow, yeah. Mascara for face. My red, shine, eye pencil. My blue, yeah. You wear red, etiquette, lipstick, you call. Spandex, tontilling leggings. Oh, was spandex? Oh, what leggings? He put jacket for top. Car put a face be fat. Walk out for road. You won't cause the accident. Pata, side by side. Lotti no cover, omoye again, yo. Side by side. Omoye tiyo, omoje. Side by side. Because prevention is better than girl me know. He wear blouse, he slitty mini, rishi waist, mini tighty, blousey tighty. Nothing for under, mo fe pa won boys. You carry side by side. Aya, open your bonnet side by side. Where the papa, particular side by side. Hands up, general search side by side. What's it? Don't cash you contraband side by side. Illegal possession of dangerous side weapon. You are madam under arrest. Capital offense, capital punishment. Side by side. Madam, dangerous dressing causing breach side of peace. Side by side. Oga, love packing causing side obstruction. Pandoro. Side by side. Pandoro. Side by side. Oh, wash your koto. Oh, buba. Oh, wash your koto. Oh, buba. Only king can love. Vi ricordiamo e vi raccomandiamo di seguire la diretta di Radio Wombat domani per il corteo che ci sarà in Val di Susa. Dalle 15 inizia il corteo, noi cominceremo a collegarci in diretta un pochino prima e vi spiegheremo via via tutto quello che succede con collegamenti appunto in diretta e seguiremo tutta la giornata. Per ritornare all'argomento di questa puntata, si parlava appunto dell'ENI facciamo un altro esempio, anche questo tratto da un racconto di un attivista per i diritti dei nativi nigeriani, e parliamo di Aemago, un altro paese lungo il delta del Niger, dove dopo una falla nell'oleodotto è divampato un incendio che l'ENI è riuscita a spengere dopo 5 giorni, ma non completamente. Quindi le colonne di fumo continuarono ad alzarsi per diverso tempo. Fuoco e petrolio hanno distrutto campi, fattorie, boscaglia, ma soprattutto hanno contaminato il fiume. E ricordiamo che le popolazioni che abitano lì vivono in gran parte di pesca, qualcuna anche di coltivazioni eccetera, ma è soprattutto la pesca che dà loro da vivere, e che le contaminazioni del territorio in questo modo praticamente gli privano del cibo e loro rimangono senza mezzi di sopravvivenza. Nei fatti stanno morendo comunità intere, con persone che sono costrette a spostarsi dalle rive del fiume per andare nell'interno e sfuggire a quelle situazioni, inquinando l'acqua che loro usano per bere, cucinare, lavarsi. E tutto è impossibile la vita. E infatti questo attivista dice: potete vedere quanto casa mia sia vicina al fiume inquinato, e noi viviamo con i bambini davanti a quel veleno giorno dopo giorno. e non è facile, soprattutto se non hai possibilità alternative per vivere, per usare un'acqua diversa, per respirare. E non è la prima volta che sperimentiamo l'inquinamento petrolifero nel fiume. Ormai sarà la decima volta. La compagnia coinvolta, che ripetiamo è l'ENI, non è mai venuta a bonificare la zona. Si parla veramente di far morire e costringere a un'economia veramente di sussistenza migliaia di persone, e con metodi veramente brutali, perché queste compagnie hanno guardie private armate, per cui non ti puoi neanche avvicinare alle loro postazioni, non hai modo di esprimere neanche il dissenso, eccetera, perché queste guardie non devono tener conto di niente, non devono rendere conto a nessuno delle loro azioni, sono pagate esclusivamente per tenere la gente buona e lontana dalle postazioni, e che non rompino le scatole se affogano nel petrolio e non hanno l'acqua per bere e le cose di cui vivere. Tra l'altro l'ENI, che è una partecipata statale, e qui si dimostra proprio l'avidità, tant'è che i suoi dirigenti, almeno un paio sono con queste inchieste che sono uscite, appunto, come dicevamo prima, sul Report, Repubblica, L'Espresso, Il Fatto. Sul Fatto Online di ieri c'era un articolo anche su una tribù che sta facendo causa in un tribunale a Milano, sempre sullo stesso argomento, sempre all'ENI. E dicevo, questi dirigenti hanno processi, eccetera, e riescono sempre a cavarsela, con milioni spesi per zittire i burocrati nigeriani, mentre la popolazione non ha veramente neanche da mangiare. E teniamo presente anche che questi pezzi musicali che abbiamo mandato e che manderemo magari anche in alcune delle prossime trasmissioni di Uru sono molto spesso pezzi musicali, anzi sempre pezzi musicali che da un punto di vista proprio da un punto di vista della strumentazione, da un punto di vista delle sonorità, sono sempre stati contrari al regime, contrari allo sfruttamento, sia da un punto di vista artistico, diciamo, da questo punto di vista, ma anche i testi delle canzoni, dei pezzi, diciamo, sono molto significativi e molto, molto indicativi. E per esempio il prossimo pezzo è di Oscar Sulley con l'Uru Dance Band. Ricordiamo che appunto Uru significa libertà, che è il nome anche della nostra trasmissione, e che è una parola, seppure in Swahili, comunque una parola conosciuta in tutta l'Africa. L'Uru Dance Band è una band seminale, in questo caso una band con base in Ghana, che ha iniziato già nel 1900, all'inizio degli anni 60, e che continua tuttora a suonare, e in cui in essa hanno vi hanno partecipato, sono stati sotto, tra virgolette, il leader Ebo Taylor, un musicista di cui abbiamo mandato diversi pezzi nelle puntate precedenti dedicate all'Afrobeat, ma non soltanto, Fela Kuti, e in questo caso di stasera Oscar Sulley, che è un musicista ghaniano, appunto la Uru Dance Band. Il pezzo si chiama Bukun Maish ed è stato inciso anche questo nel 1973 su un 45 giri che non ha avuto quasi pochissima distribuzione al di fuori dei canali tradizionali, diciamo canali di questa parte dell'Africa, cioè Ghana, Togo, Benin e Nigeria. C'è una partenza alle percussioni veramente, veramente africana da questo punto di vista, diciamo, e dall'essenza di quello è il ritmo dell'Africa, ma non soltanto, perché Oscar Sulley suona anche, cioè un, diciamo, funk, beat, ma soprattutto proviene dal jazz, e quindi una sezione di fiate, di sassofoni, che le fa un funky beat sostanzialmente, come pure c'è pure un flauto e canto, diciamo, che è un canto sotto certi aspetti, non soltanto per dire qualcosa, ma diciamo assume una forma di uno strumento. E appunto il pezzo era rimasto, diciamo, nascosto tra le pieghe dell'Africa, diciamo, del Ghana, ed è stato diciamo rilasciato, non era stato mai rilasciato, diciamo, di fuori di quella parte dell'Africa, di fuori su 45 giri fino al 2003, dove poi è apparso in questa raccolta che abbiamo descritto precedentemente. Il pezzo si intitola Bukumashi, ed Oscar Sulley e la Yuru Dance Band. Come on. bravo bravo no wo go da go no bo se le no man ki go ba ni a no ba se le no na no bo se le no guys men o ka ata go de no ya mo mo jile wa ata wo dai ya no go we eh one ya no go we ata yo ya no go we Questo era il nostro ultimo pezzo, vi aspettiamo venerdì prossimo alle, 9, alle 21.30 per la diretta e la domenica, se avete perso questa trasmissione potete, oppure ne avete tutta o un pezzo e la volete riascoltare, potete ascoltare la replica la domenica mattina alle 10 o il lunedì alle 14, altrimenti potete andare sul sito wombat.blogs.org i podcast che metteremo però tra qualche giorno e scaricarvelo e ascoltarvelo. Vi aspettiamo venerdì prossimo e mi raccomando seguiteci domani dalle 14.30 per la diretta sul corteo Notav della Val di Susa. Vi aspettiamo venerdì. Ciao ciao.